Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. L'attività dell'usura con prestiti a commercianti ed imprenditori della zona di campagna, che raggiungeva interessi fino al 45%, consentiva di alimentare e riciclare all'estero i proventi. Gli investigatori hanno accertato che gli indagati avevano prestato denaro ad un operaio che aveva perso il posto di lavoro ad un tasso di interesse variabile dal 15 al 30% mensile, una percentuale usuraia che ben presto aveva raddoppiato la cifra da restituire. La mancata restituzione del denaro comportava una serie di minacce, percosse e danneggiamenti vari, come il rogo dell'automobile della vittima. Si è scoperto che nel territorio di Campagna era sorta una organizzazione criminale che, attraverso i proventi realizzati dall'attività usuraia, provvedeva a reimpiegare i profitti trasferendo ingenti somme di denaro in Romania. Ma durante le indagini è venuto fuori un altro particolare. Uno degli indagati, già detenuto per comes not to market. Sheep bringeth no gain with usura. Usura is a marin usura. Con l'usura la lana non giunge al mercato, le pecore non rendono. Peggio della peste, l'usura spunta l'ago in mano alle fanciulle e confonde chi fila. Questo diceva Ezra Pound, lui naturalmente, il poeta, sommo poeta americano, alludeva a un senso più vasto, più intenso, più legato all'economia, alla finanza, al dominio delle banche. Aveva una sua filosofia di vita, per cui fu anche rinchiuso in un manicomio e oggi impropriamente citato e portato come simbolo di associazioni che nulla hanno a che fare con la folle poesia di Pound. Però tocca un punto fondamentale. L'usura appassisce ogni forma di vita. In un momento come questo, in cui stiamo attraversando un periodo che è segnato la mestizia comunque, in questa mestizia non esiste possibilità di risorgere, non esiste possibilità di vedere spiragli se non si considera anche il fenomeno dell'usura. L'usura nel nostro paese è naturalmente in forte crescita. Quando c'è crisi, quando c'è bisogno, quando c'è imprenditoria con difficoltà, quando anche le banche stringono i cordoni della borsa e sono sospettose nel fare credito, naturalmente questo è il paradiso degli usurai. In questi giorni c'è stata presentata una ricerca, un rapporto, Usura e il bot delle mafie, fatto appunto dalla Fondazione Antiusura Interesse Uomo. Abbiamo al telefono Don Marcello Cozzi. Don Marcello Cozzi, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei è vicepresidente Associazione Libera, che in questi giorni ha pubblicato questo rapporto. Chi siete voi innanzitutto? Beh, una fondazione antiusura di questa piccola provincia di Potenza, che però da 10 anni aderisce a Libera. E aderendo a Libera in tutti questi anni abbiamo avuto la possibilità di contattare e intercettare tante storie di vittime di usura, ma anche di persone a rischio usura di varie zone d'Italia, e alla fine abbiamo fatto una scelta, cioè quella di ampliare la nostra operatività sull'intero territorio nazionale e di fare in modo che la Fondazione Antiusura possa essere davvero considerata come la Fondazione Antiusura che Libera mette sul campo per poter rispondere alle esigenze di tanta gente. Ecco, voi avete chiamato questo rapporto il bot delle mafie. Negli ultimi 2 anni, come ho detto nel lancio, sono stati 54 i clan mafiosi che, bene o male, sono stati osservati, indagati, inquisiti, repressi per delitti legati all'usura. Lei trova che in un momento di crisi sia veramente il grande affare fare l'usuraio? Ma certamente è un grande affare per le mafie, perché in momenti di crisi di liquidità, ci dicono gli esperti che anche gli usurai classici, gli strozzini di quartieri, i cosiddetti cravattari, sono in crisi di liquidità, anche loro, cioè hanno bisogno di rivolgersi agli unici che in questo momento hanno liquidità disponibile, che sono le organizzazioni criminali. Certo, le mafie da questo paese in crisi ci stanno soltanto guadagnando, e l'usura è l'affare che più porta soldi in questo momento nelle organizzazioni criminali. Cioè, quando uno ha tanti soldi che provengono da spaccio di droga, da attività criminose, ed è naturalmente investirli, investirne parte anche nell'usura è senz'altro un ottimo affare. 800240024. Questa mattina ci faremo raccontare da Don Marcello Cozzi quello che sono i numeri e le storie derivate dalla sua indagine respiro nazionale, però mi piacerebbe avere dai nostri ascoltatori qualche testimonianza diretta, qualche sintomo, senza perdersi in un discorso che può avere una sua base di fondamento coerente, ma non mi interessa questa mattina, sì, ma anche le banche sono usuraie. In questo momento voglio parlare degli usurai, di quelli che attraverso delle finanziarie, attraverso strane situazioni non ben molto definite, o tramite il porta a porta, tramite l'avvertimento, il vicino di casa, il collega che ve lo segnala, vi prestano soldi a strozzo. Se voi non onorate questo infame prestito, poi cosa vi succede? Quello che è stato sentito in copertina: ci sono delle azioni repressive molto convincenti per farvi capire che dalle grinfie dell'usuraio non si scappa. Negli ultimi 2 anni sono stati ben 54 i clan mafiosi entrati nel mirino delle procure di tutta Italia per delitti collegati all'usura. Da nord a sud, la criminalità organizzata ha rastrellato risorse sul territorio applicando tassi usurai fino al 1500% annui, cifra registrata a Roma e che segna il record nazionale. Ma altre città non sono state da meno. Il 400% è toccato a Firenze, il 150% a Milano. Il giro d'affari è enorme e per lo più sommerso. I sequestri ai clan accusati di usura sommano negli ultimi 24 mesi più di 150 milioni di euro e il quadro peggiora se a questi dati vengono sommati quelli della Banca d'Italia. Buongiorno Mario, buongiorno. Buongiorno, sono in diretta? Sì, sta parlando con me. Buongiorno, senta, io volevo dire un paio di cose velocissime. Una è che se io ho una multa e non la pago entro X giorni, non è differente dall'usuraio, nel senso che sa benissimo a che percentuali si esagera. Però quello che voglio dire è l'usuraio... Però è un altro discorso, entra in mora, è una contravvenzione che deve pagare... No, senz'altro. E infatti, ma anche l'usuraio, se uno l'usuraio lo paga... Ma non nasce da una sua errata azione, esatto. L'usuraio. Ha ragione lei in pieno, era solo per fare un discorso economico di soldi. Ecco, quello che io voglio dire è che... In questi momenti è ovvio che voi gli date un taglio giornalistico e nel taglio giornalistico c'è quello che del 1000x% di Roma. Io questa mattina voglio parlare di strozzini e di usurai. Esatto, parlare di questo la sto ascoltando. In questo momento lei c'è entrato più in banca, se ha una piccola azienda, perché non parlate? Perché non fate una trasmissione? Perché questa mattina la trasmissione è sugli usurai, l'ho detto in apertura, in questa mattina. Ammetto che ci possa essere un problema, ne potremmo anche parlare. Non ho gli strumenti per parlarne questa mattina, voglio parlare della fase successiva. Diamo per scontato che le banche hanno tassi altissimi, le banche hanno difficoltà a dare prestiti, hanno difficoltà a sostenere. Questo lo diamo per scontato. Oggi voglio parlare degli strozzini. Non giriamoci intorno, parliamo dell'aspetto più schifoso di tutta questa vicenda. Paolo. Buongiorno Nicoletti. Allora, ascoltando l'intervento di quello insomma che mi ha preceduto, adesso non mi ricordo il nome, Mario. Diciamo che era sulla stessa falsa riga, però voglio dire che conoscendo l'aggressività degli strozzini, perché quando stanno lì a prestarti non so 1.000 euro piuttosto che 10.000, sanno benissimo che poi non puoi restituirli perché loro mirano a questo. Ma qualche esperienza lei, Paolo, in questo campo? No, fortunatamente non sono arrivato, perché a seguito di un po' di malattie, un po' di multe non pagate, insomma, che lo Stato ci mette del suo per fare la prima parte di strozzinaggio, mi sono dovuto recare agli istituti finanziari per poter far fronte a determinate, cioè pagare 100, farmene prestare 400 per pagarne poi 200, voglio dire. Allora, quando ho capito che stavo entrando in questo meccanismo che mi ha appiattito proprio la vita... Perché il passaggio è banca, finanziaria, strozzino. Esatto, no, un attimo, allo strozzino non ci sono arrivato, perché ho detto alt, banche e finanziarie, per il momento, un po' come ha fatto l'Argentina, non pago nessuno. Mi dedico alla finanza reale, all'economia reale, cioè quella di alzarmi la mattina tranquillo facendo colazione, andandomene a lavorare serenamente. sono rinato, ho rimesso a posto le mie finanze, mi sono andato a sedere col direttore di banca. Però scusi, Paolo, non è entrato nella fase in cui qualcuno le spezza le ginocchia a martellate? Ma io vorrei dare dei consigli per far sì che la gente non vada dagli strozzini, perché non bisogna andare dagli strozzini. Piuttosto non paghi lo Stato, piuttosto non paghi le banche, piuttosto ti fai protestare. Meglio protestare e fallire che andare a finire dallo strozzino. Questo è il suo punto di vista. No, lo accetto. Agostino. Allora, salve, l'ascolto sempre con interesse. E no, ti avevo detto la sua, che io, è una trentina d'anni fa, frequentavo i circoli, allora si giocava a carte, eccetera, no? E quindi avevo perso il mio stipendio e chiesi al circolo un prestito, ancora me lo ricordo, di 100.000 lire, parliamo degli anni 70, ero separato 77-78, quindi parliamo di 30 anni fa, non suppongo quasi, ed era il 10% al mese, interesse anticipato, quindi davano 90 e io lo pagavo 100, ed è stata la prima e l'ultima volta. Ma era un usuraio oppure era un... No, usuraio, ah, 10%, 10% al mese, non è che... Ma com'è fisicamente? Mese. Comincia a descrivere, vediamo, stiamo parlando ancora di situazioni storiche. Persone che come dire, tranquillamente frequentavano i circoli, eccetera. Normali? Normali, sì, normalissime, però sa qual è il problema che ho detto alla sua... Se lei non restituiva i soldi a questo signore normale, cosa le accadeva? Sì, probabilmente sarebbe successo che... E le prime cose con eleganza, no? Perché poi mi ascolti, poi questo e poi le racconto che è molto simpatico, molto veritiero, perché mi è successo a me. Allora, e questo circolo che era a Corso Vittorio, dove c'è il cinema Curso, che lei conoscerà sicuramente, c'era un circolo enorme, bravissimo. E questa persona era la maggior parte, erano commercianti dei campo dei fiori, 2-3 che prestavano i soldi, però poi li davano ad altri cadalti poi, no? E una volta io ho visto attaccare letteralmente al muro, sollevare uno che era un rapinatore conosciuto, cioè uno che andava a fare le rapine proprio, perché lei deve sapere che, diciamo, tutti... Vabbè, senta, lei sta entrando in un romanzo criminale affascinante, ma va fuori tema. Ho capito, nel sottobosco coatto fra commercianti che vogliono investire i loro guadagni in maniera proficua e persone che giocano, naturalmente esiste questa sottile filo di potere che ci porta fino allo strozzino. Don Marcello Cozza, abbiamo dato una prima riflessione con gli ascoltatori, cominciamo a dare qualche dato, però, perché sennò non centriamo il problema. Si parla o di storia romantica degli strozzinaggi dei poveri vecchietti nelle case da gioco negli anni 70, o ancora il solito problema che sono le banche che costringono ad andare dagli strozzini. Parliamo delle cose concrete. Beh, cose concrete ci dicono che in base alle sentenze, agli atti giudiziari, alle inchieste degli ultimi 24 mesi, non a caso dico 24 mesi perché abbiamo voluto mettere la lente di ingrandimento su quelli che vengono considerati un po' gli anni del picco della crisi. Gli anni della crisi, certo. No, in questi ultimi 24 mesi noi abbiamo censito attraverso questa lente di ingrandimento 54 clan, dai Casalesi ai D'Alessandro, dai Casamonica ai Cordia, gli stessi Cosco e De Stefano, clan dell'Andrangheta, clan della Camorra prevalentemente. In Casamonica sono qui in area romana, si muovono. Si muovono nella zona romana, ma un po' questi clan si muovono anche al di fuori dei propri confini regionali tradizionali, a dimostrazione del fatto che attraverso l'usura che i clan mafiosi raggiungono ormai ogni territorio di questo nostro paese, ed è a dimostrazione del fatto che non possiamo più pensare di andare a cercare coppole lupare per dire che è arrivata la mafia in una qualunque zona di questo nostro paese. Ecco, lei si è fatta un'idea di come avviene il contatto, l'approccio e la negoziazione per il prestito usuraio? Beh, un episodio molto breve, ma che penso possa essere sintomatico. Un commerciante di un territorio che ovviamente non cito, doveva fare un piccolo investimento perché stava arrivando Natale, al fornitore che gli vende materiale per il suo negozio dà un assegno di 4.500 euro. A Natale le cose non vanno bene, subito dopo lui vive con l'incubo di questo assegno che va in scadenza, ma nel frattempo lui non riesce a coprire, si confida con il barista che è vicino alla sua attività commerciale, in giro di pochi giorni si trova in questo bar, per coincidenza, lo metto tra virgolette, due persone di quel suo stesso quartiere, della sua stessa comunità, che gli offrono la possibilità di poter avere dei soldi ma questi soldi non glieli davano direttamente loro, ma altri due che venivano dalla Campania, parliamo cioè della camorra napoletana. Gli avrebbero prestato 10.000 euro, lui questo andava bene perché non solo poteva coprire l'assegno in modo tale che il fornitore quando andava a incassarlo non lo trovava scoperto quel conto, ma poteva andare bene perché andava a rimettere liquidità nelle sue casse. Lui non faceva però bene i conti, nel senso che faceva i conti senza lotte. Non ha fatto i conti di quanto poi costava tutto questo. Da 10.000 euro è arrivato nel giro di 8-10 mesi a 160.000 euro da dover restituire. Strozzino riesce ad avere anche dei titoli legali per poi esigere questa restituzione o si basa soltanto sull'intimidazione, sull'atto violento, sullo spaccare le gambe, queste cose qua? C'è una varietà enorme di metodologia usuraria, c'è anche questa modalità che lei ha citato, ma c'è anche quella di lasciare nelle mani di questi personaggi degli effetti, assegni, delle cambiali, ci sono tantissime modalità. È ovvio, tu mi lasci un assegno in bianco, questo assegno in bianco può prendere proporzioni che sono davvero inimmaginabili. Se ne vendono di tutti i colori, però attenti. Però con le nuove, diciamo, normative sulla trasparenza nelle banche, in cui ogni assegno deve essere super motivato, non ci sono degli strumenti in più per evitare questo passaggio? Questo mi preoccupa, perché c'è lo strozzino, se l'assegno in bianco non sarà più un titolo che avrà un effettivo valore per esigere poi la restituzione del denaro ad usura, passerà a metodi ancora più coercitivi e più violenti. Questo è sicuramente vero, ma appunto quello che le stavo dicendo viene fuori da una delle inchieste che noi abbiamo messo sotto l'indice di ingrandimento, un qualcosa di sintomatico che oggi noi troviamo nel panorama mafioso che gestisce l'usura. E vale a dire, questi signori, i soldi che ottengono ad usura non vanno poi a depositarli in banca, sono soldi liquidi. Abbiamo trovato inchieste dove i soldi venivano trovati nelle valigie messe in soffitto oppure nelle intercapedini a casa di queste persone, trovati circa e sequestrati negli ultimi 2 anni, 24 mesi, a soli 7 clan, 200 milioni di euro liquidi. E tutto questo denaro cash viene reimpiegato nuovamente in usura, poi passa attraverso altri rivoli, non so, l'edilizia. Oggi è sempre più difficile usare denaro cash per fare qualsiasi tipo di transazione. Questo denaro viene reinvestito nell'usura, ma può essere anche reinvestito in altro. Noi possiamo avere anche denaro che viene reinvestito, per esempio, viene investito nell'edilizia, ma viene anche investito per esempio nel commercio delle armi o viene anche investito nel traffico di droga. Parliamo di soldi letteralmente in nero, di cui non c'è traccia, perché spesso, appunto perché le ultime misure anche legislative ormai sono sempre più rigide sulla tracciabilità dei soldi, spesso il passaggio è liquido, quindi sempre meno si lasciano effetti in mano agli strozzini. Ridò il numero di telefono, mi scusi, Don Marcello Cozzi, 800240024. Ricevo soltanto messaggi di persone che mi dicono la colpa è dello Stato, la colpa è delle banche, non ve la prendete. Ma è possibile che non ci sia nessuno di tutte queste persone che i dati che ci vengono dati comunque hanno avuto un contatto diretto all'usuraio, che abbia voglia e desiderio, coperto naturalmente l'anonimato, senza fare punti di riferimento che potrebbero nuocere alla sua salute, della sua famiglia, di un contatto diretto, di un'esperienza legata allo strozzino, all'usuraio? Tutta questa gente presta soldi a strozzo, li presta a privati cittadini, li presta a famiglie, li presta a piccole, grandi, medie imprenditorie. Vorrei questa mattina qualcuno mi raccontasse questo, non vorrei dilungarmi nel solito discorso che può avere, come ho già detto, non voglio nascondermi un dito, una sua base fondata, ma non è l'argomento di questa mattina. Non voglio parlare del qualunquismo legato ai tassi di interesse, voglio parlare dell'usuraio, della schifosa persona legata a clan mafiosi, camorristi, andranghetosi, che attraverso contatti personali, nascosto e dissimulato magari da una sua attività commerciale, si fa tramite di un usuraio. Marco, buongiorno. Marco? Pronto? Marco è fuori di sé, non riesco a sentirlo. Allora andiamo avanti con Don Marcello Cozzi. Lei dà un senso a questa reticenza del pubblico? Questo avrebbero già inondato e telefonato, avessi parlato di altre cose, ma sull'usura c'è una sorta di passo indietro. Cala un muro di paura, di omertà, di silenzio, di non toccare il problema nella sua essenzialità. È molto più facile e molto più demagogico parlare generalmente di responsabilità diffuse. Intanto bisogna essere chiari su una cosa: quando si parla di usura noi dobbiamo essere chiari, non possiamo lasciarci andare ad equivoci di sorta. Se ne esce, noi ce ne usciamo dall'usura soltanto con la denuncia, non ci sono altre vie. Sì, continuano a schermi, una carta di credito costa tanto, questa non è usura. Mi volete parlare degli strozzini questa mattina, degli usurai, dei contatti che avete avuto con pestori che prestano denaro che proviene da attività illecita e mafiosa, ve ne danno tanto se volete, ma poi entrate in un giro da cui non si esce. Continui, scusi, Don Marcello Cozzi. Sì, no, appunto, quello che le stavo dicendo è questo. Noi registriamo sicuramente un tasso di denunce minimo rispetto a quello che è la vera entità del fenomeno. Negli anni abbiamo imparato, ascoltando la storia della gente, che purtroppo a volte l'usura non è neanche percepita come tale, come violenza. Cioè viene visto come un benefattore, dice per fortuna c'è l'usuraio, se no come farei con queste banche cattive? È davvero una questione culturale. A volte non si parla di usuraio perché non lo percepisci come usuraio, non lo percepisci come delinquente. Io le dico soltanto questo: un commerciante che era andato a finire in mano agli usurai e aveva pagato a questo clan mafioso il 120% di interessi annui a questo clan, alla fine questo usuraio viene coinvolto, la vittima viene coinvolta nell'inchiesta giudiziaria, ma non perché ha denunciato lui, ma perché è intercettato insieme ad altre vittime. Mi dice ad un certo punto la vittima: ma guardi, mi dice, io se potessi tornare indietro rifarei quello che ho fatto, perché comunque loro mi hanno permesso di non chiudere la mia attività commerciale. Sentiamo Alessandro. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, io chiamo da Benevento. Sono stato vittima, diciamo, per la mia attività imprenditoriale di un usuraio, che nella sottospecie era una forma di amico. Diciamo che dopo vari anni, dopo varie battaglie con la Procura di Benevento, nella quale sono stato impegnato per 10 anni per poter far svolgere il processo nei confronti... Cioè lei l'ha denunciato, ha avuto il coraggio di denunciarlo. Sì, ed è stato anche condannato in via definitiva dalla Cassazione a 2 anni di carcere. Beh, certo anche... viene condannato. Quanto le aveva, diciamo, prestato? Mi aveva prestato 200 milioni. Quindi molti anni fa? Sì, nel 1998. Era sotto forma un prestito fatto da un amico, lei aveva bisogno di denaro. Sì, con degli assegni bianchi dati in garanzia o di incassato, perché la formulistica era questa. Nel giro di un anno e mezzo, da 200 milioni, io ho restituito a questa persona 850 milioni. In 2 anni e mezzo, 800... era un amico? Ed era un amico. E l'amico faceva sempre l'amico, nonostante l'avesse già ottenuto 4 volte ciò che le aveva prestato? Perché la prassi era quella di che il titolo a garanzia serviva solo per il pagamento degli interessi. Diciamo, o sono riuscito a farlo condannare, è stato condannato, ma io di questa somma all'ultimo mi sono dovuto accontentare di 50.000 euro che era stato... Cioè diciamo i suoi soldi non li ha ripresi più. No, non avrei potuto neanche riprendere perché... Lo Stato mi dice che dopo che è stata condannata, a queste persone i beni non gli sono stati confiscati. Dopo la sentenza ha costituito un fondo patrimoniale a favore della famiglia. Quindi conosceva tutte le maniere per uscirne sì, pulito. È pulito. Diciamo, ecco, all'ultimo mi sono dovuto accontentare di questi 50.000 euro che neanche mi aveva voluto dare dopo un pignoramento, in quanto... essendo state arrestate, gli necessitava... Quindi conviene la denuncia farla subito, immediatamente, non aspettare anni come ha fatto lei, perché poi è difficile riprendere i soldi. No, io la denuncia l'ho fatta subito, sono stato 10 anni a correre appresso al tribunale, perché... Sì, però lei aveva già sborsato 4 volte la cifra che aveva avuto io in prestito. Ho dovuto attendere 10 anni per lo svolgimento del processo. e nel frattempo a queste persone non è stato bloccato niente. Ma fermiamoci un istante, è chiaro, finalmente una persona che ha raccontato un episodio concreto, se altri ce ne sono saremo ben contenti di parlarne questa mattina. Mi scrive un sms un ascoltatore: non viene percepito come usuraio, come è stato detto poco fa, il primo tramite con l'organizzazione malavitosa che poi fornisce il denaro a prestiti usurai, perché alcuni sono subdoli, anche magari l'amico fidato, il vicino di casa, si possono rivelare tramite di questa organizzazione. Poi continuano a mandarmi messaggi: hai paura di attaccare le banche, no? Faccio l'attaccante, oggi parlo di usurai, se mi verrà un'idea sulle banche parlerò di banche. Bisogna sempre porgere il petto al fuoco nemico, oppure avere un nemico a cui sparare addosso. Voglio parlare di usurai questa mattina, non vedo perché devo parlare di qualcos'altro, di nulla. Ho paura in particolare. Don Marcello Cozzi, ricordo, presidente della Fondazione Antiusura Interesse Uomo, vicepresidente dell'Associazione Libera, ha pubblicato in questi giorni un rapporto, Usura, il bot delle mafie. Vediamo nel tempo che ancora possiamo avere a nostra disposizione di fare un punto sulle fattispecie nuove in questo periodo di crisi del rapporto fra usuraio e vittima. Si sta parlando tantissimo, si parlava prima della mancata percezione dell'usuraio, ma anche del numero minimo di denunce. Non dimentichiamo che se di per sé l'usura non viene denunciata per tanti motivi, ma non ultimo è quello della vergogna, quando l'usura è gestita dalle mafie il motivo fondamentale è la paura. Su questo io vorrei dire una cosa, ovviamente senza aprire quel discorso, perché come lei poco fa diceva è un portone che si va a spalancare. È ovvio che ci sono precise responsabilità, ci sta un sistema bancario su cui bisogna riflettere. Assolutamente vero. È ovvio, tutto questo è vero, questa gente ha ragione. È altrettanto vero che quando viene una persona e dice, come io prima le raccontavo, rifarei tutto da capo, per noi questa è una provocazione e una sfida, perché sta a significare che allora tu sei anche disposto a venderti l'anima al diavolo. Sì, ed è vero, ed è così. Abbiamo incontrato e incontriamo tantissimi che sono disposti a vendere l'anima al diavolo pur di salvare le proprie attività commerciali, le proprie attività imprenditoriali. Questa sfida con le mafie noi la vinciamo sulla velocità delle risposte. A chi ha bisogno in quel momento tu devi essere in grado di dare una risposta, perché gli usurai sono molto più veloci di noi. Prima parlavo di 200 milioni di euro sequestrati a soli 7 clan, e tutti i soldi che loro hanno a disposizione subito, immediatamente. Non c'è da fare nessun passaggio burocratico, non c'è da firmare nessuna carta, sono soldi che loro ti danno in mano. Io mi rendo conto che in certi momenti in cui la propria impresa versa in gravi difficoltà, bisogna rientrare con dei soldi, le banche fanno pressione, avere denaro fresco, contante in mano dalla sera alla mattina fa riflettere poco su quello che potrebbe significare. Uno non fa una proiezione del futuro: sì, ma questi soldi poi dovrò restituirli. Intanto chiudi i buchi, nessuno ti telefonerà più per quel giorno, nessuno ti chiederà di movimentare il tuo conto, nessuno ti verrà a chiedere soldi. Certo, il problema che bisogna far capire è che rendere che le persone siano consapevoli in che mani si mettono e dove andrebbero a finire. Ma questo è verissimo. Mi permetta di portare questo esempio che forse non calza. Ormai su ogni pacchetto di sigarette c'è scritto che fumo nuoce gravemente alla salute, eppure questo non è un deterrente, non mi sembra essere un deterrente. Per quanto riguarda l'usura, purtroppo ho paura di dire che è la stessa cosa. La disperazione è il tentativo di tenere in mano e di tenere in piedi quell'impresa e quell'azienda che magari è anche un vincolo affettivo, perché era del padre, perché era del nonno, perché ci sono dei legami affettivi. Quel tentativo purtroppo porta molti ad andare in mano a questi personaggi. Quindi secondo lei andrebbe considerato come uno zombie ormai, che ha l'apparenza, la parvenza di qualcosa c'è stato caro, ma ormai non appartiene più al mondo dei vivi, quindi tanto vale rendersi conto che lì è finita piuttosto che entrare in un altro incubo. Purtroppo è così, l'illusione è quello che ci frega tutti e frega queste persone, l'illusione di farcela, io ce la farò, ognuna di queste vittime, perché è vero, noi parliamo stamattina degli usurai, di questi criminali e soprattutto delle mafie, criminali che gestiscono questo affare. Sarebbe interessante parlare della tipologia delle vittime, della psicologia delle vittime, l'illusione, arrampicarsi sugli specchi anche quando l'evidenza dice esattamente il contrario. E quando l'evidenza si chiama clan Casamonica o clan dei Casalesi o i Cordia o qualunque altro, beh, più evidenza di quello, eppure a volte neanche quello. Eppure a volte neanche quello. La ringrazio, don Marcello Cozzi, e la saluto. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Ma io parlo dalla mia esperienza, perché ho frequentato sale da gioco per una quarantina d'anni. E quindi ha avuto a che fare con usurai. Ho conosciuti diversi, di tutti i tipi, di tutte le razze. Insomma, è stata veramente un'esperienza da questo punto di vista. Però devo dire una cosa che va un po' contro a quello che stavo sentendo in questo momento. Che quelli che della malavita organizzata, la cosiddetta malavita organizzata, gli usurai, sono pochissimi. La maggior parte degli usurai che praticamente girano in queste sale da gioco, ma anche al di fuori, è gente normale, è un pensionato, è un commerciante stesso, è un Stefano, lei giustamente sta parlando di un piccolo cabotaggio, dell'usura da quartiere, da condominio, da piccolo paese, che esiste. Sì. Ma non sono quelli che poi hanno cifre enormi da prestare? No, mica tanto, No. Fino a quanto arriva uno di questi strozzini di quartiere? Ma guardi, sicuramente in alcune situazioni in cui mi sono trovato parliamo anche nell'ambito dei 50.000 euro, quindi non è che è una cifra tanto modesta, a mio avviso, insomma. Poi, e apparentemente sono persone dimesse, modeste? Sono persone normali, persone dimesse, persone... Poi c'è il commerciante, c'era io, ne conoscevo uno che faceva il macellaio, che stava sotto casa mia, e lui faceva l'usura, ma lo sapevano tutti, con interessi del 5% al mese, insomma. È chiaro, poi se c'è da mettere... Io non è che voglio giustificare gli usurai, assolutamente, per carità, però c'è anche da dire che questi una parte di rischio ce l'hanno, perché loro danno i soldi senza nessuna garanzia. Ecco, ma il macellaio, se uno non restituiva i soldi, faceva, affilava i coltelli, come faceva a imporre? No, poi ma l'eligo è una cosa che conviene a tutti, cioè quando tu prendi un prestito da un usuraio, no, e paghi un 5% al mese, se tu sei regolare che paghi, è chiaro che loro poi non ti danno subito delle cifre grandi, loro cominciano a darti delle cifre basse, i 1.000-2.000 euro, rischiando poco. Se tu sei preciso che paghi il tuo prestito, paghi settimanalmente oppure paghi i soldi a fermo, ci sono diversi modi poi di pagare questi prestiti che vengono fatti, e poi hai un credito, quindi puoi chiedere. Quindi se tu sei fedele nel pagamento del prestito a usura, l'usuraio ti tratta bene e continua a darteli. Grazie. Avvocato Carmine Laurenzano, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Responsabile dello sportello nazionale antiusura dell'associazione Codici. Ha sentito l'ultima telefonata? Sì, ho sentito, ma anche la precedente telefonata. Esiste una sorta di sindrome di Stoccolma nei confronti della vittima verso l'usuraio. Sembra quasi che sono grati all'usuraio di aiutarli in un momento di difficoltà. Guardi, quello è il problema principale che abbiamo quando si parla di far denunciare la vittima. Spesso e volentieri, in gran parte dei casi che abbiamo seguito, soprattutto ecco il riferimento alla fattispecie che descriveva l'ascoltatore che è intervenuto ora, quindi l'amico che conosce al bar o il personaggio che viene presentato, che fa del piccolo prestito che poi piano piano cresce, la giustificazione che viene apportata è sostanzialmente ci viene riferito che è l'unica persona che mi ha aiutato in quel momento. Ma infatti il senso di tutti i messaggi che mi stanno arrivando è proprio questo. Io non voglio... Era la persona che scavava la fossa sotto i piedi. Però bisogna dire che, a differenza della telefonata, il problema il quadro generale dell'usura è molto più complesso di quello che si possa... E vediamo se riusciamo a dare dei punti di chiarimento allora. Ma guardi, allora intanto bisogna capire, l'usura è connessa molto strettamente connessa con le zone geografiche, tant'è che ultimamente noi siamo il nostro osservatorio, sta facendo una mappatura di tutte quelle che sono le azioni di polizia nell'ambito dell'anti-racket e anti-usura, e c'è un'escalation, una vera e propria escalation di azioni anti-usura, anti-racket e anti-usura nella provincia lombarda, quindi Milano e Varesotto, ma a sorpresa anche nel Veneto. Abbiamo Verona e Vicenza che stanno diventando dei veri e propri poli di concentrazione. Lei come se lo spiega questo, avvocato? Guardi, normalmente sono connessi a infiltrazioni di criminalità organizzata che si è trasferita letteralmente al nord. Le segregazioni, la transumanza dell'andrangheta in certe zone. Guardi, come insegnava anche Don Ciotti, l'usura sta là dove ci sono i soldi. Ora, su questo vogliamo anche inserire il fatto che nella regione Veneto negli ultimi 2 anni ci sono state delle grossissime crisi economiche. Ecco qui che il substrato economico e sociale è buono e ottimo per far attecchire questo tipo di fenomeno. Luigi, buongiorno. Buongiorno a lei. Sentivo la sua trasmissione che è molto interessante. Io sono un piccolo imprenditore e ho avuto, diciamo così, un incontro da vicino con queste organizzazioni parallele. Ci racconti come avviene l'incontro? L'incontro avviene che chiaramente il primo passo, purtroppo, ecco, credo che tutti parlano di banche perché è la banca in qualche modo che ti strozza. È chiaro, su questo non ci piove. Quando chiude la banca, uno prima va in banca, è chiaro. Non neanche chiude, diciamo che la banca ti comincia a mettere all'angolo. A quel punto tu sei costretto, per paura di perdere tutto quello che hai costruito negli anni, di, diciamo, ingegnarti. Talvolta, molte volte la stessa banca ti suggerisce, perfetto, ma noi non possiamo... Benissimo, allora talvolta diciamo vengono queste persone che sono persone normalissime, il tuo vicino di casa, il barista, il macellaio, non voglio offendere nessuno, qualsiasi categoria, va bene, queste persone... Beh, il macellaio è folcloristico, cioè coltelli, quindi uno pensa che... No, invece anzi, io posso dire che sono anche delle figure che tutto sembrano meno così orchi, alti... Ma io ricordo, guardi, nella mia fanciullezza agreste, innocue vecchiette, pensionate, che erano delle strozzine tremende. È perfetto, è la persona che ha la possibilità di avere molti liquidi, magari messi così accantonati negli anni perché risparmia, perché è una persona particolarmente attenta nello spendere soldi. Per cui tu vai da queste persone ti danno delle regole, delle varie opportunità. Però io ne sono uscito fuori, nel senso che io ho preso delle cifre che sono riuscito a riconsegnare, a ridare in tempi giusti. La cosa brutta è che se io oggi, dopo avere un conto in banca da più di 20 anni, essere una persona sempre regolare, vado alla mia banca e gli chiedo se per favore è possibile avere 3.000 euro per una settimana, per un mese, la banca non te li dà. Per cui c'è anche quest'altro aspetto, mentre invece queste persone, queste organizzazioni ti offrono, ti danno un'opportunità che è una strada in salita, ma te la danno. Loro i soldi non sanno dove metterli, perché le associazioni mafiose hanno una tonnellata di cash da dover investire, quindi non è il problema darglieli subito. Non hanno problema a darli subito, sanno che poi, per assurdo, ecco, io mi chiedo tante volte le banche, ma se un imprenditore riesce a coprire mensilmente interessi del 10%, tu banca, perché hai paura a darglieli? Cioè, perché ti... crei ostacoli, perché li posso garantire, creano ostacoli, fotocopie, non si legge bene, devi riandare, e tu giochi, passi il tempo sulla mia pelle, sulla mia vita, sulla vita degli operai, per cui spesso mi faccio queste domande, ma perché? E ma probabilmente anche perché l'usuraio poi ha metodi molto più drastici ed efficaci per riscuotere il credito. Ma guardi che c'è anche quest'altro aspetto, l'usuraio diciamo guadagna molto di più se lei si fa il percorso, se tu i soldi non glieli ridai nei tempi condivisi, cioè più allunghi il tuo debito più lui guadagna. Beh, l'usuraio, l'usuraio vuole vedere il suo cadavere, è chiaro, quando non ha più, nulla da spremere non vale più nulla lei, è chiaro. Ma se l'usuraio si espone è perché sa che c'è un cadavere da prendere. Chiaro. Se l'usuraio vede che non c'è niente, allora tu banca, tu struttura, tu dovresti anche lì diciamo cambiare un po' il meccanismo, perché la banca tante volte ultimamente stanno diventando a parte intrattabili. Cioè, vabbè, questo è un discorso, non è che voglio eluderlo, se no continuano a scrivermi, hai paura delle banche, ma voglio parlare degli strozzini oggi, quelli classici, quelli che hanno il gruzzoletto nascosto sotto il mattone oppure derivano da una grande organizzazione mafiosa. Walter. Sì, buongiorno. Io... Pronto? Sì, la sto ascoltando. Sì, buongiorno. Io volevo portare la mia esperienza. Io sono finito sotto usura, avevo una 20 anni, presso a poco, per la smania di avere un'attività tutta mia. Sono partito con un prestito di 4.000 euro, io dovevo ridarmi 5.000 a un mese perché c'era una fattura, lui il 20% veniva coperto da una fattura fittizia, mentre nel giro di un mese sono andato di nuovo da questo personaggio, ho esposto che non potevo darglieli tutti, gli davo la metà, abbiamo cominciato con una serie di cambiati. Dopo un anno avevo firmato circa 190.000 euro di cambiali, ne avevo pagate già 80-90.000 e le altre poi... Ce l'ha pagato 90.000 euro per aver 4.000 euro? Sì, sì. E però quando io... Dove l'ha tirati fuori? Dove l'ha tirati fuori questi 90.000 euro? Lavorando, ho venduto... Ma lavorando non riusciva a avere 4.000 euro e ne riuscite a avere 90.000? Era un periodo che avevo preso un cliente che non mi aveva pagato per 40.000 euro dopo 6 mesi che lavoravo, avevo chiesto al fornitore... Quindi è un momento di difficoltà superabile, questo ho capito. Allora, avvocato Carmine Laurenzano, ricordo responsabile sportello nazionale in usura dell'associazione Codici. Vediamo di capire un po' meglio dai racconti degli ascoltatori cosa accade. Cerchiamo di capire alcuni meccanismi. L'usuraio ha interesse a mantenere in vita la propria vittima finché ovviamente ha dei frutti da dare. Quindi anche riferimento all'altra telefonata, non è del tutto vero che l'usuraio vuole il cadavere. Se lui riesce a mantenerti per anni, perché noi abbiamo situazioni che si sono protratte anche per 14-15 anni, ecco, esempio l'ultima chiamata partendo sempre dai piccoli prestiti, il ragionamento sta lì che tramite... Cioè conta sulla famiglia, sugli amici... La vittima diventa sì un limone da spremere, però nel momento in cui ci sono risorse da spremere, quindi finché l'usuraio capisce che c'è lo zio che può prestare dei soldi alla vittima, l'altro imprenditore che può prestare dei soldi alla vittima, continuerà a spremere quella vittima e a mantenerla in vita. Quando è che la vittima diventa cadavere? Quando non ha più credito da nessuno? La vittima diventa cadavere quando non ha più liquidi ma ha dei beni intestati. Questo è il fatto, è il confine. Io ti uccido quando hai dei beni intestati. Hai dei beni o tu intestati o la tua famiglia, tant'è che molte situazioni di usura si nascondono proprio dietro delle vendite di beni ovviamente fatte a ribasso, cioè abbiamo immobili di valore di centinaia di migliaia di euro venduti a poche decine di migliaia di euro. Magari quindi l'usuraio alla fine rileva lui stesso il bene a prezzi naturalmente stracciati. Esattamente. Quello è lo scopo. Noi abbiamo seguito in passato imprenditori che hanno distrutto e dilapato interi patrimoni, ma parliamo di beni immobili per qualche milione di euro, proprio in questa maniera, perché a un certo punto incominciavano a vendere all'usuraio, a vendere o a fare delle promesse di vendita o dei contratti preliminari con i quali cercavano di ripianare il debito, ovviamente che non si ripianava mai. Questo è Rosario, sentiamo un attimo Rosario, velocemente Rosario, lei dice difficile denunciare. Ma è difficile denunciare prima di tutto perché a me è successo, ne racconto soltanto uno di episodio, questa gente è un altro aspetto che nessuno dice ma che c'è. Io ho fatto amicizia, questo signore veniva nel mio locale, per dire dell'aggancio, che bello sto locale, alla terza volta mi dice come va il lavoro, io dico ma se ci difendiamo, e lui mi dice se hai bisogno io ho un'oreficeria, ci vado per bisogno, morale, per un anno... 15.000 euro, 10% ogni mese. A un certo punto, dopo un po', mi si presenta nel locale e mi dice ho venduto il tuo debito a questa persona, una faccia che non le dico, e io mi sono incavolato, ho reagito diversamente, e questo mi dice con una flemma che solo loro hanno, va bene, quando se non vuoi pagare ricordati che noi sappiamo dove vanno le tue bambine a scuola. Io a quel punto che devo fare secondo lei? O l'ammazzavo o mi facevo ammazzare. Quindi, e cosa ha fatto? Delle due cose cosa ha fatto? Io per un po' ho sopportato e ho pagato. A un certo punto, per fortuna, ma mi è andata bene, ho continuato a pagare. Per fortuna questa grande organizzazione, non posso fare nomi, niente, è stata beccata. Però mi sono trovato in tribunale a testimoniare contro queste persone. E l'ha fatto lei, ha testimoniato? E ho detto che non pagavo, ho detto che gli pagavo delle cene nel mio locale, sinceramente... Diciamo, ha eluso, non ha fatto fino in fondo il testimonianza. Mi rimbombava nelle orecchie queste parole, sappiamo dove vanno i tuoi bambini a scuola. È molto chiaro, Rosario, è molto chiaro. Avvocato Laurenzano, in conclusione, allora, è venuto fuori proprio alla fine quello che è anche l'elemento scatenante, la paura nella denuncia dell'usuraio, che è l'aspetto delinquenziale vero e proprio. Sì, però questo è una cosa che bisogna mettere chiaro in evidenza, bisogna denunciare. Il problema è che non tanto le forze dell'ordine quanto le istituzioni sono impreparate ad affrontare questo tipo di situazioni, perché sono lente. Tutta la legge quadro antiusura con tutti i provvedimenti di sostegno sono lenti, sono macchinosi, sono burocratici. Però noi abbiamo, questo bisogna dirlo, abbiamo un grande vantaggio e sono proprio le forze dell'ordine, a cominciare dalla Guardia di Finanza, continuando con i carabinieri e le forze di polizia. Noi abbiamo accompagnato personalmente a situazioni simili proprio all'ultima telefonata le persone a fare la denuncia, dove siamo riusciti a fare delle vere e proprie trappole con il carabiniere nascosto dentro al portabagagli della macchina che è uscito fuori al momento opportuno. Quindi la ringrazio, è molto chiaro il messaggio finale, che la denuncia alla fine è l'unica maniera per liberarsi in maniera definitiva dall'usuraio. Riavere i soldi, quello sarà più difficile. A domani.